to blame. Insomma, tutto un chilo di pasta asciutta. Oh yeah. Mi vedo poco. Oh yeah. Oh yeah, caglia di merda. Ma quando Ugo passa il sugo, c'è? Ugo passa il sugo, mi riceve. Ugo! Oh yeah, Oh,